and girls, your attention, please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Ecco, benvenuti qui nella foresta. No, non è la foresta. Vedi, tornati. Che questi qua sono i libri che avresti dovuto leggere quando eri bambino. Leggere, cioè guardare e ascoltare. Questi sono i libri. Libri sonori. Non hai imparato niente sto weekend alla Fiera del Libro? No, non hai imparato niente. Non imparo mai niente, libri sono un po' duro. Questo qua che cosa sarebbe secondo te? Potrebbe essere un meccanismo difettoso di qualche porta. Questa è la rana. Ah, la rana. C'è anche il disegno, la rana. Fammela vedere la rana. La rana, sì, ce n'è due, sì, poi c'è anche la libellula. Ecco, ci sono suonare queste, la libellula? Si chiamano queste piante che galleggiano? Le ninfee. Ecco, sì. Va bene. Allora, facciamo suonare un'altra cosa, lo so, l'uccellino. Drago. Sì, ma d'accordo. Vogliamo cominciare il programma, dai. È già cominciato, allora. Stiamo insegnando come si riconosce ad esempio il gufo. Allora, va bene, il gufo, sentiamo il gufo? Ecco, questi sono i rumori che potrebbero sentire i migranti quando arrivano in Italia sulle coste, se arrivassero in una foresta di notte. Invece arrivano su una spiaggia arroventata dal sole, quindi non possiamo nemmeno agganciarci con l'argomento che volevo sono introdurre. Sono vietati, si chiamano svolte a U. Sì, quella che hai fatto della conduzione. Esatto, non si può fare, cioè stavamo parlando della manca civetta. Tito che intervenga, ma così Tito, almeno mette un po' di ordine. Ho dato da mangiare, dorme. Non, va bene, non allora parliamo oggi dell'emergenza migranti. La Germania non ha perso l'occasione di bacchettare ancora una volta il nostro governo per l'eccesso di lamentele, perché per via di queste ondate di sbarchi sulle coste italiane. Ma cosa noi c'entra la Germania, no? Scusa? Come cosa c'entra la Germania? Se arrivassero dalla Tunisia direttamente sul Mar Baltico, vorrei vedere 5.000 tunisini a Lubecca, bella lì, vorrei vedere la merda che vada a coglierli festosamente. Ma cosa dice, credi? Ma, guten Tag a tutti quanti. Guarda che la maggioranza bene di quelli che arrivano, vi accogliamo a Lampedusa, appunto, vanno poi in Germania, vanno tutti lì, quindi la cosa interessa anche alla Merkel, che però è meno catastrofista dei nostri ministri, che sono sempre lì a lamentarsi con l'Europa. Cosa stai dicendo? Tutto sommato, dice il ministro degli esteri tedesco Friedrich, per l'Italia si tratterebbe di accogliere al massimo 10-12 mila di rifugiati. L'anno scorso la Germania ne ha accolti 40 mila senza di lamentarsi. Sì, però quindi accoglierli quando sbarcano non è come accoglierli dopo che si sono stati lavati, stirati, profumati. Vabbè, noi come al solito ci becchiamo sempre i pacchi. Ma come i pacchi? Ci tocca soccorrere quasi ogni giorno una gran quantità di persone in condizioni, drago, igienico-sanitarie disperate. Sì, sembra quasi il nostro premier che poi, si poi dopo che sono state rimesse in sesto le facciamo andare in Germania. Certo. E la Germania li riceve tutti messi a nuovo. Vabbè, credo che non si lamentano. Ma quindi la differenza tra noi e i tedeschi nell'atteggiamento verso i migranti, secondo te, è dovuto solo al fatto che da noi arrivano tutti smerdati, in Germania invece belli puliti. Ma per forza! Ma se da noi arrivassero tutti belli puliti, dici che il bambino Calderoli, il bambino Bossi, eccetera, li accoglierebbero a braccia aperte. Non lo so, non lo so, però comunque le guardie costiere sì. Dai, ormai sono diventati dei badanti, vabbè, invece che dei militari. Dici, ma sono sempre lì affannati a portare ai rifugiati le coperte, i piatti di minestra, le bevande. Ma non facciamo i cinici su questi argomenti. Meno male che c'è qualcuno che si occupa di questi poveri cristi. Sì, ma poveri soldati, dai, hanno tutti delle facce, come dire, ho capito la solidarietà, ma tanti anni di poligono e di passo del leopardo per poi fare cosa? Rimboccare le coperte dei disperati? Ma meno male che ci sono, dai, solo che signor no. Il problema è questo, basta lamentarsi, si lamentano solo i bambini, volete capirlo? L'Europa ci ha lasciato da soli e noi questo dobbiamo dimenticarlo. È un grande problema, una questione molto molto drammatica proprio. Penso che o l'Europa fa un piano straordinario e aiuta l'Italia o noi non possiamo essere lasciati soli davanti a questa vicenda. Di fronte a questa crisi sociale e geopolitica, la risposta dei governi è: cara Italia, sono affari tuoi e devi fare da solo. Che poi alla fine la soluzione per risolvere il problema dei profughi o clandestini o rifugiati, che a dir si voglia, il governo italiano ce l'ha. Ah, ce l'ha? È certo che ce l'ha. Senti cosa dice il bambino ministro Calderoli. Quando arrivano vanno rispediti indietro sui limiti delle acque territoriali, altro che andare a prendersele addirittura sotto le coste libiche. Siamo andati quest'estate a prendere una nave a 120 chilometri dalle coste della Sicilia. Ma lo stretto della Sicilia è largo 140 chilometri. Quindi siamo andati a prendere qualcuno che era a prendere il sole in Libia sul pattino e l'abbiamo portato via confondendolo per un gommone. Quelli devono tornare a casa. E fatto una volta non partono neanche più gli altri e non ci saranno neanche le tragedie delle carrette che vanno a fondo. Perché se ne restano a casa loro. Asilo nido. Allora qui noi dobbiamo intenderci. Io voglio capire una cosa su questo federalismo. Ho capito che un posto in un asilo nido deve costare asilo nido allo stesso modo a Reggio Calabria come a Reggio Emilia. siamo d'accordo, bisogna fare così. Asilo nido. Non ho ancora capito che risposta viene al seguente problema. Primo, cosa intendiamo per asilo nido? Asilo nido. Cioè, gli asili nidi italiani che standard devono avere? Asilo nido. Secondo, quanti posti d'asilo nido ci vogliono per i bambini italiani? Asilo nido. L'Europa dice 33. 33. Su 100 bambini. In Emilia sono 30. 30. La media italiana è 10. 10. A Reggio Calabria sono 2. 2. Asilo nido. Io voglio, per discutere di federalismo, sapere prima che obiettivo ci diamo per i posti d'asilo nido degli italiani. Diamo il diritto di asilo nido. E ora, bambini, il sonnellino. Capa. Mi scappa. Dillo a Suor Dentone, se c'entro io. No. Perché no? Cosa vuoi? Ma perché mi vergogno, no? Ma come ti vergogni? Ma l'ho fatta 10 minuti fa. E ti scappa di nuovo? Eh sì, ho bevuto 3 bottiglie d'acqua in 10 minuti. Ma come 3 bottiglie d'acqua? Ma perché? Sì, avevo sete, ho ancora sete, ma... 3 litri, Ho capito, ma perché avevi così sete allora? 3 litri. No, oggi ho mangiato il tortino di acciughe di mia zia. Di nascosto da Suor Dentone. Certo. È perché lei vuole che mangiamo sempre fino a chicotti. Il tortino di acciughe di mia zia, cioè, non è una fettina di pane con sulla pasta d'acciughe. No. Praticamente è una sfoglia, tipo delle ostie sono, a volte di acciughe salate. Sapete che sono tutte piene di sale per la conservazione. Mia zia non le lava neanche. Prende questa ostia di pane, avvolge delle acciughe salate. Io l'ho mangiato tutto. Voi due, basta, dai. Qui c'è gente che dorme, dai. Su. Cos'hai che dorme? Cosa hai preso per dormire? Sono il sonnellino, scusa. Ma come fai a dormire? Quando non dormi mai, non riesci a dormire di quando notte. Quando mi dicono che c'è il sonnellino, io obbedisco. Sono un bambino obbediente. Meno male che non hai detto che domani c'è gente che si sveglia perché deve andare a lavorare. Avrei potuto anche dire quello, Ma io se non faccio la pipì non posso dormire. Vabbè, ma basta, non bere più, scusa. Ma non bere, no? Ma come faccio? Una sete tremenda. Ma non bere. Ho la bocca compromessa dalle acciughe. Ma poi compromesso. Ho tutti i grani di sale appiccicati al palato. Vabbè, senti, chiamo io la suora. No, la chiamo io, dai. No, che figura ci faccio? Ma che te frega, Madonna, scusa? Di un pirletta che gli scappa sempre. Senti, fare la pipì è un diritto sacrosanto, Anche se hai fatto la cazzata di bere 3 litri d'acqua, non puoi mica tenere la pipì ad lib. Ad lib, però scusa, si tratta di aspettare qualche minuto. Anche tu, bambino Alberto, aspetta, no? Fate proprio grossa questa qui della pipì. Aspetti un attimo. Arriva lui con la grossa, ma vorrei vedere te. No, quella grossa è un'altra cosa. Ho capito, ma adesso suona la campanella, puoi andare dove vuoi, dai, se no puoi sempre chiamare la suora. No, la suora no! Ma perché? Cosa vuoi da noi allora? Dici a noi che ti scappa come se noi potessimo fare qualcosa. Ha detto 3 volte noi con 3 o diverse, è una roba che mi viene, vabbè. Vabbè, forse avete ragione voi. Io sono uno che tende a trasferire i propri problemi agli altri. I propri problemi, va bene. E lo faccio anche con le ansie, infatti, le mie ansie sociali. Vabbè, allora falla finita e risolviti il problema da solo, no? È così che si fa. Sì, ma poi Suor Dentone mi giudica, Ma vabbè, io non voglio essere giudicato. Che palle sta Suor Dentone, la chiamo io e basta. Basta, Suor Dentone no! Piuttosto me la faccio addosso, Anzi, me la faccio addosso. No, ma bambino Alberto, ma scusa, se te la fai addosso, Suor Dentone forse che non ti giudica, Ah, già è vero. Allora, dai. Quindi adesso chiamiamo Suor Dentone. Stai tranquillo, la chiamiamo. No, fermo. Cosa? È tutto inutile. Perché? È perché ormai... Cos'è? Ormai sono a posto. Questa è? Questa è il lamento della bambina cinese. Ma che la bambina cinese? Mi fa sentire bene, la civetta, anzi il gufo. Cioè la civetta, va bene. Schiaccia allora bene quel coso. Non sai neanche fargli andare. I libri sonori per i bambini dell'asilo. Meno di 6 anni. Non sai farlo funzionare. Allora, cosa devo fare? Dai, allora, mandate le vostre risposte. Che animale è? Ma l'ho appena detto io. Allora, cambiamo animale. Che animale è? Questo, no. No, questo. Che animale è? Questo è il drago.